America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Donald Trump ha vinto in 5 stati su 5, quindi unplanned. Hillary Clinton ha vinto in 4 stati su 5, ha dovuto concedere a Bernie Sanders il Rhode Island. Beh, in Rhode Island, diciamolo, Sanders giocava in casa. Sentiamo il commento di Donald Trump dopo la vittoria. But this one's a diverse victory. I mean, you go Rhode Island, then you go Maryland, then you go Connecticut. Ecco, sentite, ormai sicuro di se stesso Trump, che dice: è andata, per quanto mi riguarda è andata, mi considero il presunto candidato per la nomination repubblicana, vinceremo al primo voto, balteremo Hillary Clinton facilmente. E questo è quello che ha detto ieri nella dichiarazione della vittoria. Tra l'altro sono passato proprio davanti alla Trump Tower mentre c'era il discorso di Trump e c'era una folla, che non vi dico, di gente e di televisioni, di telecamere e di entusiasmo da parte dei suoi sostenitori. C'era anche il figlio Eric, c'era il governatore del New Jersey Chris Christie. E un altro dei commenti, devo dire, caustico come al solito, antipatico, di Trump è stato contro Hillary. Dice: se fosse un uomo, Hillary non avrebbe preso più del 5% dei voti. Trump ha conquistato in questa partita 99 delegati, è arrivato a quota 945. Dovrebbero essercene 1237 per vincere. Cruz invece è molto indietro, a quota 563. Tra i democratici Hillary ha conquistato 72 delegati, ormai a quota 2026, attenzione, contando i super delegati, mentre Sanders è a quota 1291. Per Hillary mancano ormai appena 400 delegati, sono circa il doppio i delegati per i democratici rispetto a quelli repubblicani. Sentiamo Hillary. That's why we're setting bold, progressive goals, backed up by real plans. Ecco, Hillary entusiasta, che grande notte, dice: torneremo a Filadelfia per la convention democratica con la maggioranza dei voti. La nostra nazione, ha detto, è nata a Filadelfia, ma la grandezza dell'America non è un diritto di nascita, deve essere conquistata da ogni generazione. Andiamo avanti e vinciamo la nomination. Per ora occupiamoci di questo. Ecco, devo dire che la domanda che dobbiamo porci oggi non è se Donald Trump vincerà la nomination repubblicana, perché ormai, come ha detto lui stesso, la cosa è praticamente fatta, ma la domanda è se davvero potrà diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Ecco, finora tutti dicono: beh, in un confronto con Hillary non ce la farà, vincerà Hillary e per Trump non c'è nulla da fare. Ma queste sue continue vittorie schiaccianti, tra l'altro con maggioranze ieri in molti casi superiori al 60%, e bisogna dire che Trump forse qualche carta da giocare ce l'ha. Non sarà amato dalla leadership del suo partito, che però ormai comincia a fare buon viso a cattivo gioco, tra l'altro. Come vi dicevo, indietro nei sondaggi nazionali rispetto a Hillary Clinton, è considerato un volgarone, si dice che non sia preparato su molti dei dossier chiave che riguardano la superpotenza. Però il fatto centrale è che finora è il candidato che ha vinto di più e meglio rispetto a qualunque altro candidato democratico o repubblicano. Ieri, per esempio, come vi ho detto, Hillary ha dovuto concedere il Rhode Island al suo concorrente Sanders. E gli altri due, gli altri due concorrenti repubblicani, cioè Cruz e Kasich, non vanno da nessuna parte, perché prima si mettono d'accordo su una spartizione di stati, poi sembra che l'accordo non vale più. Comunque sia, insomma, la sua nomination mi sembra cosa fatta. E come ha riconosciuto il New York Times di ieri, che pure aveva appoggiato fra i repubblicani, perché il New York Times dà una scelta di voto sia per i democratici che per i repubblicani, quindi la dà per tutti e due, e a New York aveva suggerito Kasich per le elezioni locali. Ma insomma, questo Kasich ha vinto finora uno stato su 43 o 44 stati, dunque non ha storia. E in qualche modo il New York Times mette in evidenza che cosa? Beh, il fatto che Trump dimostra di avere una grinta e una leadership politica che gli altri non hanno. Questo forse da noi ancora non lo si percepisce, però attenzione, una segnalazione perché Trump è più real forse di quello che sembra da noi, perché non importa se i suoi valori, i suoi principi o le sue ricette politiche non siano condivisibili, quello che importa è che riesce a prevalere in scioltezza sugli avversari. Ecco, e per questo, tornando a bomba, tornando alle primarie repubblicane in questo caso, possiamo dire che in effetti a meno di un disastro, la nomination andrà a Trump. Come può pensare una leadership repubblicana di dirottare la convention, diciamo, su un Kasich che appunto ha fatto pochissimo, o su un Cruz che tra l'altro non è neppure amato dalla leadership del partito, dai suoi compagni senatori? E insomma, Cruz potrà anche fare bene in Indiana se davvero correrà da solo contro Trump, perché vi dicevo che l'accordo poi di desistenza a questo punto è molto più debole, ma dal punto di vista matematico non ha alcuna possibilità di accumulare delegati a sufficienza per raggiungere quel livello chiave di 1237 delegati. Dunque mi sembra impensabile credere che davvero qualcuno, come del resto si diceva da un sacco di tempo, devo dire, c'erano molti grilli parlanti che dicevano no, la convention sarà dirottata a favore di candidati più credibili. L'unico candidato credibile qui è quello che vince sul campo, e Trump sta vincendo sul campo. Io vi ripeto, sono preoccupato dall'idea che un personaggio come Trump possa finire alla Casa Bianca, perché realmente lo considero non preparato, non adatto a svolgere quel ruolo di leadership necessario in un paese come l'America, un ruolo di leadership che deve poggiare su consiglieri, deve poggiare su un consenso raggiunto in un gabinetto di ministri dove ognuno dice la sua. Trump invece decide da solo, è sicuro che quello che lui pensa o decide sia la cosa più giusta, e dunque il vero rischio è effettivamente in quello, in un decisionismo troppo marcato, troppo pronunciato, cosa di cui l'America sicuramente non ha bisogno. Per questo credo che gli Stati Uniti oggi, gli americani oggi, si interroghino in modo, come dire, un po' inquieto, un po' perplesso, se davvero sarà possibile che all'inaugurazione di gennaio al posto di Barack Obama ci sarà il suo opposto a 180 gradi, e cioè Donald Trump. Una cosa devo dire la sappiamo, una delle caratteristiche americane è che tutto è possibile. Uno di coloro che la pensa così e Bill Clinton, dice che la campagna di sua moglie dovrà serrare molto i bulloni e le fila per poter combattere contro un candidato duro come Donald Trump. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi hanno vinto di nuovo Donald Trump, Hillary Clinton, si scontreranno a novembre, e dunque ai vincitori che vincono ancora dedichiamo la canzone di oggi, Win Again, Vinci Ancora, di Johnny Cash. The news is out. Been seen out running round. I know that I should leave, but then I just can't go. You win again. This heart of mine could never see what everybody can I do? What can I do? You win again. I'm sorry for your victim now, 'cause soon his head like mine will bow. He'll give his love and give the blame. love you still. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.